Mezzogiorno. Le notizie in 60 minuti. Di Simone Spezia. Nuove acquisizioni di documenti nella sede di Consip. I magistrati romani appunto acquisiscono documenti sull'appalto da 2,7 miliardi. Il CSM intanto si riunisce sullo scontro tra la procura di Roma e quella di Napoli. L'iracheno arrestato in Germania è un ex combattente dell'ISIS, ma non è collegato alle bombe contro il pullman del Borussia Dortmund, dicono gli inquirenti tedeschi. Malato di sclerosi multipla dal 1993, morto in Svizzera col suicidio assistito, Davide Trentini, 53 anni. Le sue ultime parole: basta dolore. Firme false del Movimento 5 Stelle a Palermo, chiesti 14 rinvii a giudizio, compresi 3 deputati nazionali e 2 regionali. In Alitalia proseguono gli incontri con la mediazione del governo, l'azienda e l'esecutivo devono fare di più, dice Camusso. Poletti, continuiamo a lavorare. Milan, è in corso l'incontro per la cessione della squadra, i cinesi devono versare altri 370 milioni di euro. Una buona giornata da Simone Spezia, bentornati a Effetto Giorno, le notizie in 60 minuti, il punto a metà giornata di Radio 24 su quello che succede in Italia e nel mondo. 349-238-6666 è il numero per gli sms, per i messaggi su WhatsApp, e poi c'è la nostra pagina Facebook, www.facebook.com/effettogiorno, dalla quale stiamo andando in diretta anche in diretta video. In apertura, dunque, torniamo ad occuparci del caso Consip. Imminente sul caso Consip l'apertura di una pratica al CSM dopo la richiesta del membro laico del Consiglio Zanettin per far luce sulle attività delle procure di Napoli e Roma. Secondo Zanettin, il CSM deve accertare se il comportamento di singoli possa aver offuscato l'immagine del magistrato determinando un'incompatibilità ambientale o funzionale. Le due procure sono entrambe impegnate sul caso Consip. L'indagine partita da Napoli è affidata al NOE, al quale l'ufficio Capitolino ha revocato l'indagine. Napoli invece ha confermato l'incarico, nonostante il capitano del NOE Scafarto sia sotto inchiesta a Roma. Smentito ogni contrasto dal procuratore reggente di Napoli, Nunzio Fragliasso, che sostiene le iniziative investigative assunte nell'ambito della propria autonomia non sono connesse con quelle assunte dalla procura partenopea e non hanno alcun riflesso su di esse. Oggi la procura di Roma ha ordinato di acquisire nuovi atti negli uffici della centrale acquisti. Il provvedimento è stato preso dopo gli ultimi sviluppi dell'inchiesta, secondo quanto si apprende, che ha portato all'iscrizione nel registro degli indagati del capitano Scafarto per aver manipolato almeno 2 elementi dell'indagine sull'imprenditore Alfredo Romeo e su Tiziano Renzi. Sotto la lente un appalto da circa 2 milioni e mezzo. Laura Vigiano, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Napoli. Ci spostiamo all'estero adesso. Non è collegato alle bombe di Dortmund, a quanto pare, l'uomo arrestato in Germania. Non ci sono riscontri che colleghino il presunto fondamentalista islamico arrestato per l'attentato contro il pullman del Borussia Dortmund, investito da 3 esplosioni martedì mentre raggiungeva lo stadio per la gara di Champions League, a sciogliere le riserve la procura antiterrorismo tedesca. Il fatto che l'arrestato sia estraneo all'attentato non significa però che le fonti giudiziarie abbiano escluso la pista islamista. Indiscrezioni su una rivendicazione in questo senso erano circolate già nelle prime ore dopo l'esplosione. La polizia però considera aperte tutte le piste, compresa quella di un attacco di estremisti locali tanto di destra quanto di sinistra. Inoltre le autorità stanno comunque cercando di ottenere un mandato d'arresto per la persona fermata, un uomo, un iracheno di 26 anni, che sarebbe stato membro dell'ISIS in Iraq, dove sarebbe stato a capo di un'unità di 10 miliziani incaricata di condurre omicidi, estorsioni e rapimenti. Cristina Carpinelli, Radio 24, Il Sole 24 Ore. E ora in Svizzera, dalla quale arriva un nuovo caso di suicidio assistito di un italiano. Sentiamo. La cosa principale è il dolore. Bisogna focalizzarsi sul dolore. Io basta, dolore. Questo è il messaggio di Davide Trentini, 53enne toscano malato di sclerosi multipla, morto nella clinica svizzera dove si era recato per ottenere l'eutanasia. Ad accompagnarlo Mina Welby, co-presidente dell'associazione Luca Coscioni, che ha dato la notizia attraverso i microfoni di Radio Radicale. Dopo il clamore della storia di DJ Fabo, un altro italiano ha scelto così di andare in Svizzera per morire. Intanto sono 6 le proposte di legge in materia di eutanasia che costituiscono il testo unificato attualmente al vaglio della Camera, ma il dibattito dibattito è stato rinviato ed è fermo da oltre 6 mesi. Ora l'esame dovrebbe riprendere il 19 aprile. Ciao Davide, è stato un dovere aiutarti, ha scritto su Twitter Marco Cappato, che aveva accompagnato in Svizzera DJ Fabo. Grazie Davide per aver reso pubblico quello che in Italia è illegale e quindi clandestino, scrive su Facebook l'associazione Luca Coscioni. Adriana Fracchia, Radio 24, Il Sole 24 Ore. La vicenda all'Italia, oggi l'incontro tra aziende e sindacati. Sono ore decisive per il salvataggio di Alitalia. Dopo un mese di trattativa, oggi è infatti l'ultimo giorno utile per raggiungere un accordo sul nuovo piano industriale, un'intesa alla quale gli azionisti hanno legato il rifinanziamento della compagnia aerea, che in caso contrario rischia il commissariamento. Al Ministero dello Sviluppo Economico stamattina i segretari generali di CGIL, CISL e UIL hanno incontrato i ministri che seguono la vertenza, il padrone di casa Calenda, il titolare dei trasporti del Rio e quello del lavoro Poletti. Sarà una lunga giornata, ha detto al termine la numero uno della CISL, Furlan. Abbiamo illustrato le nostre ragioni, le nostre proposte ai ministri. Ci sarà una nuova interlocuzione dei ministri con l'azienda e poi faremo il punto. Sarà una giornata lunga. Poche parole a fine incontro anche dai rappresentanti del governo. Stiamo cercando di far riavvicinare le parti, ha spiegato Del Rio. L'obiettivo resta quello di arrivare ad un accordo entro oggi, ha ribadito invece Poletti. C'è una discussione in corso, quindi è una trattativa. Si continua a lavorare. Andrea Viali, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma. Oggi è una protesta di Coldiretti sotto il Ministero delle Politiche Agricole e il Ministro Martina annuncia un'etichetta di provenienza per il riso. Elisabetta Fiorito, buongiorno. Sì Simone, è proprio così, il ministro delle politiche agricole Maurizio Martina corre ai ripari dopo la protesta degli agricoltori sul riso. Vogliamo introdurre l'obbligo di indicazione dell'origine del riso in etichetta. In accordo con il ministro dello sviluppo economico Carlo Calenda è pronto il decreto per la sperimentazione, lo chiediamo a livello europeo, continua Martina, e siamo pronti ad introdurre questo strumento in Italia. Plaude il PD sull'etichettatura del riso dopo quella sul latte, mentre critico il Movimento 5 Stelle, per il quale ogni volta che una protesta arriva in piazza o davanti alla sede di un ministero il governo tira fuori dal cilindro un decreto che promette di risolvere magicamente la situazione. Questa mattina appunto la protesta degli agricoltori davanti al ministero di via 20 Settembre, denunciano 3 kg di riso greggio costano come un caffè, colpa delle speculazioni e degli inganni che colpiscono le risaie italiane e danneggiano i lavoratori. Secondo la Coldiretti un pacco di riso su 4 venduto in Italia e straniero, ma non si vede proprio per mancanza d'obbligo di provenienza in etichetta. A te Simone. E grazie dunque anche ad Elisabetta Fiorito per questi aggiornamenti. Veniamo ai dati Istat di oggi, quelli sull'inflazione. Inflazione ferma. Dopo 4 accelerazioni consecutive, a marzo l'indice dei prezzi al consumo resta invariato su base mensile e registra un incremento dell'1,4% rispetto allo stesso mese di un anno fa. A febbraio l'aumento, anno su anno, era stato dell'1,6%, il più alto da 4 anni. Al netto degli energetici e degli alimentari freschi, l'indice sale di un decimo di punto. Dunque, l'incremento, anno su anno, dell'indice generale continua ad essere nelle mani dei beni energetici e non regolamentati e degli alimentari non lavorati, come frutta, verdura, carne e pesce fresco, la cui crescita però è in calo. A dire il vero, anche i trasporti hanno accelerato un po'. Variazioni invece quasi nulle per i prezzi di buona parte delle altre tipologie di prodotto. La buona notizia per chi fa la spesa è che nel famoso carrello i beni alimentari, quelli per la cura della casa e della persona, hanno prezzi in calo di quasi un punto rispetto a febbraio, mese in cui i rincari avevano superato il 3%. Valeria De Rosa, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Nella manovra potrebbe entrare una regolarizzazione per Airbnb, regolarizzazione fiscale ovviamente. Arriva la tassa su Airbnb, la chiamano così, ma in realtà tutti avrebbero sempre dovuto pagare l'IRPEF sugli affitti turistici, quelli sotto i 30 giorni, che non necessitano di registrazione all'Agenzia delle Entrate. La nuova norma, inserita nella manovra correttiva all'esame del governo, prevede che dal 1 maggio 2017 i proprietari possano scegliere di pagare, invece della più costosa IRPEF, la cedolare del 21% su questo tipo di locazioni e sublocazioni. Agenzie immobiliari e portali dovranno comunicare i contratti conclusi per loro tramite. Non solo, a pagare la tassa sotto forma di una ritenuta saranno direttamente l'agenzia o il portale e non i proprietari. A definire i dettagli del nuovo adempimento sarà un provvedimento delle entrate. Saverio Fossati, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Notizia degli ultimi minuti, il Consiglio dei Ministri ha approvato il decreto correttivo al codice degli appalti, si tratta del via libera finale, con diverse novità rispetto alla versione originale del testo, ovviamente appena avremo maggiori aggiornamenti su questo ve li daremo. Adesso ci occupiamo di Turchia, ci spostiamo all'estero alla vigilia del voto per il referendum costituzionale, sale la tensione. Il ministro degli interni turco ha bloccato le attività di quattro ONG, tra le quali l'italiana COSV, per motivi di sicurezza nazionale. Tra le altre organizzazioni, due sono americane e una inglese. A tutte e quattro è stato negato il permesso di continuare ad operare fin da gennaio o da febbraio. Secondo fonti ufficiali, citate dal quotidiano Hürriyet, le ONG avrebbero proseguito la loro attività anche senza licenza e quindi illegalmente cooperando con associazioni turche o con altre fondazioni internazionali. Il vice primo ministro Veysi Kainak, che ha ricevuto l'ambasciatore americano dopo il provvedimento, ha dichiarato: tantissime ONG lavorano a Gaziantep, o ad Hatay, vicino al confine siriano, dove ci sono molti profughi, ma a Diyarbakir ci sono ben pochi migranti, lasciando intendere che la volontà di operare nel cuore della regione curda viene vista con sospetto dalle autorità turche, che sospettano collusioni tra gruppi terroristici e fondazioni. La notizia della chiusura delle ONG, insieme a quella di molti arresti, compresi quelli di 9 militanti dell'ISIS nella provincia meridionale di Mersin, che avrebbero pianificato attacchi ai seggi, arriva a 3 giorni dal referendum, cruciale per il futuro del paese, con il quale Erdogan chiede più poteri e la trasformazione della Turchia in una repubblica presidenziale. Marco Barbonaglia, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Istanbul. Parliamo di tutt'altro, la vicenda infinita del Milan potrebbe, dovrebbe concludersi oggi con la vendita ai cinesi. Giovanni Capuano, buongiorno, e che cosa sappiamo? Sì, buongiorno. Beh, sì, sappiamo che siamo davvero nelle ore decisive per la definizione della trattativa che chiuderà l'era Berlusconi al Milan e certificherà il passaggio alla nuova proprietà cinese. Quello che possiamo fare è raccontare la mattinata di oggi, una mattinata che si sta vivendo nello studio legale Gianni Origoni & Partner, che è lo studio legale che ha seguito tutti i mesi di questa estenuante trattativa. Intorno alle 10 sono arrivati i vertici di Fininvest e per la parte cinese sono arrivate Marco Fassone, che sarà amministratore delle legato, e David An Lee, che è il braccio destro di Yongon Lee, che è colui che formalmente acquisirà il Milan. Intorno alle 11 c'è stato lo scambio dei documenti tra le parti, uno scambio dei documenti che è stato anche certificato da alcune foto che sono apparse sui social network. Segnale questo che siamo a un passo dalle firme, che in questo momento però non sono ancora arrivate. Risulta che il bonifico con gli ultimi 370 milioni di euro sia partito poco dopo le 10, sia in Lussemburgo pronto per essere trasferito a Fininvest, e questo sarà ovviamente l'atto che metterà fine a questa trattativa. 370 milioni che in gran parte servono per rispettare gli accordi con Fininvest e in parte servono per immettere i primi capitali nelle casse del Milan, che chiude questo bilancio con un passivo tra i 70 e gli 80 milioni di euro. Per qualche minuto negli uffici dello studio legale è stato anche Adriano Gagliani. Sono gli ultimi atti da amministratore delegato del Milan, poi nelle prossime ore ci saranno le sue dimissioni, quelle di tutto il consiglio d'amministrazione. Il nuovo amministratore delegato, come detto, sarà Marco Fassone. Questa sera è prevista una cena d'arcore con Silvio Berlusconi, che sta vivendo con distacco le ore dell'addio dal Milan. Milan che è stato suo per oltre 30 anni con 29 trofei conquistati. Berlusconi che continua a essere agli atti, è intenzionato a rifiutare l'offerta della presidenza onoraria senza poteri esecutivi. Che cosa accadrà da qui in poi? A brevissimo dovrebbe esserci la firma, quindi questo closing sarà certificato. Domani c'è già fissata l'assemblea dei soci del Milan, è già fissata la presentazione di nuovi proprietari. In queste ore ci sarà anche la prima visita a Milanello, ci sarà il CDA, la nomina dell'amministratore delegato, e poi sabato ci sarà il debutto nel derby di Pasqua contro l'Inter. Questa è la roadmap, l'abbiamo attesa davvero per tanti mesi, però a questo punto sembra davvero che ci siamo. Sembra che ci siamo e vedremo, perché la vicenda di questa trattativa ci ha abituati a molte sorprese. In ultimo, occupiamoci di cinema e poi di cultura. Innanzitutto il cinema, perché sono molte le notizie che arrivano in questa mattinata da Cannes, dove apprendiamo che non c'è nessun film italiano tra i 18 selezionati in concorso per la Palma d'Oro al Festival di Cannes 2017. Sappiamo che Fortunata, il film di Sergio Castellitto con Jasmine Trinque e Stefano Accorsi, è stato selezionato nella sezione Un Certain Regard, appunto nella 70esima edizione del Festival di Cannes, così come nella stessa sezione c'è Après la guerre di Anna Rita Zambrano. Queste le notizie che arrivano da Cannes, e rimaniamo in realtà tra cultura e cinema, perché a 50 anni dalla morte, avvenuta il 15 aprile del 67, una mostra monumentale divisa in tre parti ricorderà dal 13 aprile al 9 luglio Antonio De Curtis in arte Totò, una serie di immagini, documenti, filmati e testimonianze per rendere omaggio al grandissimo artista di teatro, cinema e televisione e a mattatore indiscusso. L'esposizione si intitola Totò Genio, sarà itinerante, partirà da Napoli, verrà poi ospitata da Catania a Torino per arrivare poi forse persino a Buenos Aires. Mostra curata da Vincenzo Mollica e Alessandro Nicosia. Sentiamo quest'ultimo al microfono di Adriana Fracchia. Il comune denominatore è Totò Genio, perché Totò era di una categoria davvero superiore, e questo ho voluto che si raccontasse nella prima delle tre mostre, che si chiama Genio tra i geni e che fa vedere proprio nel momento della ricorrenza come il mondo della cultura e dello spettacolo lo ha amato. Il secondo, che ho chiamato Totò che spettacolo, è forse il principale a Palazzo Reale di Napoli, è quello che ci fa vedere Totò che fa spettacolo, a testimonianza che una mostra così grande e così monumentale non si sarebbe potuta fare senza il sostegno delle grandi istituzioni. E poi al convento di San Domenico Maggiore, l'ultima, dentro Totò, ci racconta Totò segreto, cioè quello delle sue passioni e dei suoi amori. E questo, dunque, con questo chiudiamo questa prima parte della trasmissione. Adesso andiamo a sentire cosa succede sulle strade e poi inizieremo il nostro giro per l'Italia e ricominciamo da dove abbiamo cominciato il nostro giro per l'Italia spesso in questi giorni, ossia dalle campagne ferraresi nelle quali si sta cercando questo killer, il cosiddetto killer di Budrio, Igor Ezechiele o comunque si chiami, e sono 5 giorni che non si trova. Effetto giorno. Effetto giorno, le notizie in 60 minuti, il punto a metà giornata di Radio 24 su quello che succede in Italia e nel mondo. Al microfono sempre Simone Spezia, in diretta come sempre sia su Radio 24 naturalmente, ma anche sulla nostra pagina Facebook www.facebook.com/effettogiorno. Una diretta video nella prima parte della trasmissione. Abbiamo parlato in inchiesta Consip delle nuove acquisizioni di documenti, abbiamo parlato del fatto che la polizia tedesca ha scagionato l'iracheno arrestato perché non collegato alle bombe contro il pullman del Borussia Dortmund. Abbiamo parlato di Davide Trentini, 53 anni, che ha deciso per il suicidio assistito, era malato di SLA e non, chiedo scusa perché qualche ascoltatore me l'ha fatto notare, non di sclerosi multipla, come detto nei primi titoli. Le sue ultime parole sono state basta dolore. Poi le firme false del Movimento 5 Stelle a Palermo, sono stati chiesti 14 rinvii a giudizio. Iniziamo dunque il nostro giro per l'Italia e lo iniziamo ancora una volta da quelle campagne nelle quali quello che è noto come il killer di Budrio, l'uomo che ha ucciso il barista a Budrio appunto e ha ucciso anche una guardia ecologica, non è stato ancora trovato. Il russo, il serbo, tanti nomi che sono stati fatti e tante le ipotesi e le cose che sono circolate. Si nasconde addirittura nelle tane delle volpi. Torna con noi Daniele Predieri, cronista della Nuova Ferrara. Ciao Daniele, bentornato. Ciao, buongiorno a tutti. Allora, sulle tracce anche tu, per modo di dire naturalmente, di quest'uomo, forse siamo in grado di recuperare, lo chiedo a Roberta Frisani in regia, la voce di Stefano Biasone del Reggimento Tuscania, che è insomma un po' la voce di queste ricerche. Il Parà è un militare naturalmente e sta, ed è là appunto per supportare queste ricerche. Sentiamolo. Le operazioni sono costantemente monitorate, procedono 24 ore su 24 fino a quando non raggiungeremo il nostro risultato. Sicuramente il territorio, per la sua conformazione, per la sua connotazione geografica e topografica, e la conoscenza che il soggetto, per averci vissuto diversi anni, per quanto ci risulta, ha di questo territorio, è un elemento a suo favore. Questo è tutto quello che vi posso dire. Abbiamo trovato delle aree in cui sicuramente il soggetto ha quantomeno trascorso recentemente del tempo per riposare o dal quale è passato. Allora, abbiamo sentito ieri Bellotti, che è il capo delle guardie zoologiche, al quale gruppo di volontari, al quale apparteneva anche l'uomo che è stato ucciso da questo killer. Daniele ci diceva, Bellotti dice, guardate che può darsi anche che se ne sia andato, insomma, in queste campagne così tutte pianeggianti, non è difficile vedere una persona che si muove su quel territorio. No, campagne anche abbastanza piene in questo periodo nel quale i contadini lavorano. Che dici? Che aria tira? C'è un equivoco di fondo. Qui non si tratta di campagna aperta. Questo, ripeto, lo abbiamo fatto anche nei giorni scorsi. Si tratta di aree molto circoscritte, aree lacustri, dove c'è di tutto, canne boscaglia, sottobosco. Sono zone impervie proprio. Non è che c'è una vivibilità. E allora la conferma, tu hai fatto sentire Biasone, che è il coordinatore delle ricerche, è un ufficiale di Parade Tuscania, lui ha confermato che lo stanno cercando lì dentro, e lui è ancora lì dentro. E anche stamattina il generale Giardina, che è il comandante provinciale di Bologna, ha spiegato questo, ha confermato che le ricerche sono ancora lì, e non si andrà via finché non lo troveranno. Soprattutto però le ricerche sono anche parallele su tutta quella corte dei miracoli, chiamiamo così, che lo ha protetto, che probabilmente lo ha anche nascosto prima. Ecco. Sì. E poi c'è stato anche un appello da parte di questo generale alla popolazione, dicendo calma e sangue freddo, questa è una riduzione molto sintetica, sì. E soprattutto ogni segnalazione da farla presente, ma ovviamente che siano segnalazioni sensate, non isteriche. Sì, ma è ipotizzabile secondo te, Daniele, e lo stanno ipotizzando le persone che lo cercano, che ci sia ancora adesso qualcuno che lo sta nascondendo, o sta diventando anche troppo pericoloso nasconderlo? Questo non lo possiamo sapere, almeno io non lo posso sapere, però diciamo, ripeto, è la rete che lui aveva attorno fino a pochi giorni fa, che può darsi che su cui stanno lavorando. Però ribadisco, c'è estrema convinzione per le tracce che hanno repertato. Lui si sposterebbe in quest'area in diversi punti. Hanno trovato diversi tacciti dove lui avrebbe riposato per diverse ore e poi dopo sarebbe ripartito. Ecco. Addirittura hanno trovato anche delle buche in cui lui si avrebbe dormito, buche che, questo è quello che scriviamo noi come la nuova Ferrara oggi, è stata data contezza, che spesso sono tane delle volpi, perché lì è pieno, ecco. Questo è allarga la tana di volpe e ci si mette dentro, in sostanza, per infatti lui proprio è persona che ovviamente adesso, per sopravvivere, questo è quello che dicono gli inquirenti come deduzione, beve l'acqua dei canali, l'acqua del fiume, ovviamente, quindi ci sarà anche un problema da un punto di vista fisico per lui. E poi dal punto di vista dell'alimentazione hanno trovato addirittura, questo avrebbero trovato, perché questo è quello che mi hanno riferito, però diciamo, dei tuberi dentro queste buche, quindi lui si alimenta in modo molto molto primordiale, primitivo. Allora, Daniele, io ti ringrazio sempre per la tua disponibilità. Altre cronache, appunto, le trovate sul sito, oltre che sul quotidiano stampato della Nuova Ferrara. Grazie a Daniele Predieri, che sta seguendo tutta questa vicenda. Lo ringraziamo anche per l'aiuto che ci dà a cercare di capire che cosa sta succedendo, perché effettivamente c'è tutto un pezzo del paese che si chiede com'è possibile che sono 5 giorni in un'area tutto sommato circoscritta che si sta cercando quest'uomo, e quest'uomo non si riesce a prendere. Vedremo come andrà a finire questa vicenda, perché prima o poi evidentemente salterà fuori. La prossima tappa del nostro giro per l'Italia ci porta in realtà non lontano da là, ci porta a Parma. Voi avete mai parlato male del vostro capo sul gruppo WhatsApp con i vostri colleghi? Beh, insomma, è facile ipotizzare di sì, è facile ipotizzare di sì. Beh, sappiate che rischiate il licenziamento. È successo appunto in un'azienda a Parma. Noi siamo in linea con Silvia Caravacca, avvocato della FAI CISL, che sta seguendo queste due donne che sono state licenziate. Buongiorno Caravà, benvenuta. Buongiorno a voi. Allora, che cosa è successo? Ce la spieghi il più semplicemente possibile. Sì, è successo che un gruppo di dipendenti creava una chat su WhatsApp, come spesso accade tra lavoratori che diventano, oltre che colleghi, poi anche amici col decorso del tempo, chat che inizialmente era preordinata allo scambio di turni e informazioni lavorative, poi col tempo, vista l'amicizia crescente tra le colleghe, diventava anche un luogo di confidenze, di chiacchiere e di dialogo. Probabilmente nell'ultimo periodo, complice una situazione un clima un po' pesante dal punto di vista lavorativo, le ragazze si scambiavano anche confidenze relative alla propria magari insoddisfazione sul posto di lavoro, sì. O qualche critica, però sempre in tono molto goliardico, mettiamolo così, mai assolutamente i toni della chat avevano assoluto carattere. Sì, ma magari ci scappa una parolaccia, però è la chat, insomma, no? Quello str del mio capo, diciamo così, insomma, ecco, però è la chat, eccetera. Eccetera. Che cosa succede poi? È successo che il datore di lavoro, venuto a conoscenza di quelle che lui riteneva offese nei suoi confronti, ma che di fatto poi offese non erano, ha ritenuto di contestare disciplinarmente la condotta a due di queste lavoratrici e in seguito a procedere con il licenziamento disciplinare. Licenziamento disciplinare. Ma sì. Scusi, ma come li ha ottenuti i messaggi il capo? C'era il delatore dentro il gruppo, Sì, probabilmente gli sono state comunicate da una persona che faceva parte appunto della chat e che, per ragioni che non conosco e che esono un pochino anche dalla causa lavoristica che sto seguendo, ha portato a conoscenza il capo di questi dialoghi. Senta una cosa, c'è un tema qua, no? Che mi sembra che abbiate sollevato anche voi, che la corrispondenza è inviolabile, no? Sì. Si può applicare alle chat oppure no questa cosa? Allora, a mio parere sì, perché le chat, come le mailing list, sono delle forme di comunicazione tra soggetti predeterminati e circoscritti. Quindi all'interno di una chat le comunicazioni vengono a conoscenza di X soggetti e non possono essere conoscibili all'esterno. Diverso è ad esempio il caso di Facebook, dove io ovviamente posto una notizia sulla mia pagina Facebook e la conoscibilità Chiaro, quella è pubblica e lo sappiamo. Poi non smettiamo mai di ricordarlo agli ascoltatori che... No, perché poi a volte ce n'abbiamo qualcuno particolarmente irruente, per così dire, che si lascia andare a sfoghi piuttosto pesanti sui social. Gli ricordiamo sempre che sono cose pubbliche e quindi c'è il diritto anche penale. Certo, esatto, c'è anche il diritto penale per quella roba. Sì. Mentre invece voi dite, in questo caso si tratta di corrispondenza. Esatto, e quindi, peraltro è un principio che è stato anche confermato da diverse sentenze di tribunali, piuttosto che Corte di Cassazione, che hanno appunto bollato questo tipo di comunicazioni equiparandole alla corrispondenza privata. Sì, sì. E sento una cosa, ovviamente farete ricorso, no? Abbiamo depositato ricorso. Avete già depositato ricorso? Sì, siamo in attesa. Che tempi prevede? A Parma, per fortuna, il Tribunale Sezione Lavoro funziona molto bene e sì, i tempi di durata delle cause sono molto brevi, per cui secondo me nel giro, se la causa avrà il suo corso naturale, cioè se non si concilia in prima udienza come previsto effettivamente come possibilità dal codice di procedura, sì, comunque i tempi per una causa ordinaria non superano l'idea dell'anno, tutto sommato andiamo abbastanza veloci. Allora la ringrazio, grazie avvocata Silvia Caravà della FAI CISL per essere stata con noi. La figura peggiore di tutta questa vicenda è il delatore, senza ombra di dubbio, quello che passa al capo i messaggini. No, è veramente, è una persona orrenda. Ci fermiamo, andiamo a sentire cosa succede in borsa naturalmente, poi ci ritroviamo. Giro per l'Italia che ci porta a parlare di sicurezza stradale, di quello che stanno facendo nel Lazio e a Roma, che è una cosa un po' particolare. Se fai un incidente grave ti controllano il telefonino perché vogliono vedere se nel momento nel quale ti stavi schiantando, stava succedendo qualcosa, stavi messaggiando, stavi telefonando, cose di questo genere. Effetto giorno. Effetto giorno, le notizie in 60 minuti, il punto a metà giornata di Radio 24 su quello che succede in Italia e nel mondo. Al microfono sempre Simone Spezia, sempre in diretta tanto su Radio 24 quanto sul nostro sito, in diretta video, o meglio sulla nostra pagina Facebook, www.facebook.com/effettogiorno. I nostri titoli: ci sono state nuove acquisizioni di documenti da parte dei magistrati nella sede di Consip, acquisizioni di documenti sull'appalto da 2,7 miliardi. Intanto il CSM si riunirà sul lo scontro tra la procura di Roma e quella di Napoli. L'iracheno arrestato in Germania è un ex combattente dell'ISIS, ma non è collegato alle bombe contro il pullman del Borussia Dortmund, lo dicono gli inquirenti tedeschi. Malato di SLA dal 1993, morto in Svizzera col suicidio assistito, Davide Trentini, 53 anni, le sue ultime parole: basta dolore. Firme false del Movimento 5 Stelle a Palermo, chiesti 14 rinvii a giudizio, compresi 3 deputati nazionali e 2 regionali. Il Milan: è in corso l'incontro per la cessione della squadra, finalmente dovremmo esserci, i cinesi devono versare altri 370 milioni di euro la borsa. Fineco, la banca che semplifica la banca, vi presenta Effetto giorno. Allora, ci prepariamo alle partenze per il fine settimana di Pasqua, poi per quello del 25 aprile, poi per quello del 1 maggio. Non c'è probabilmente occasione migliore per parlare di sicurezza stradale e di quello che sta facendo, come abbiamo appreso nelle ore scorse da un pezzo, da un servizio realizzato sul quotidiano La Repubblica, per parlare di quello che sta avvenendo nel Lazio e a Roma in particolare. Dal punto di vista soprattutto dei controlli, Giovanni Salvi è il procuratore generale della Corte d'Appello di Roma. Buongiorno dottor Salvi, benvenuto. Buongiorno. Allora, succede questo, che innanzitutto, come qualche ascoltatore saprà, normalmente se la polizia, se le forze dell'ordine sospettano che si sia bevuto, si siano assunte delle droghe, ci si può rifiutare di fare un esame del sangue. E voi avete fatto sì che l'esame del sangue, in caso di incidente grave o mortale e ci sia questo sospetto, insomma, possa essere coattivo, nel senso costringete le persone a fare l'esame del sangue. Noi riteniamo che la legge lo preveda, lo consenta, e che sia molto importante per poter accertare con precisione anche quale sia il livello effettivo di intossicazione da alcol o da sostanze stupefacenti, e questo ha una funzione molto importante nel processo e quindi anche di conseguenza una funzione preventiva altrettanto importante. Le confesso che da cittadino io questa cosa del fatto di potersi rifiutare di fare l'esame del sangue non l'ho mai capita. Le chiederei, da uomo di diritto, che razio ha questa norma? Infatti la norma non dice assolutamente questo, ci sono state delle interpretazioni in questo senso che a mio parere sono sbagliate, lo abbiamo valutato tutti i procuratori del distretto, ne hanno discusso e sono arrivati a questa conclusione. La legge prevede una sanzione aggiuntiva per chi si rifiuta e quindi per chi costringe lo Stato ad una defaticante attività per raggiungere un risultato al quale il cittadino è invece obbligato. Quindi la sanzione si aggiunge al fatto che comunque si possa procedere coattivamente. Il punto è che non è facile realizzare il prelievo del sangue contro la volontà di chi vi si deve sottoporre. Per questo, sotto lo stimolo della Polizia Stradale, che ha fatto un bel lavoro preparatorio, e con l'accordo con la Regione Lazio, da cui dipende la sanità regionale, sono state previste tutte i vari passaggi ed è stata organizzata presso gli ospedali l'esistenza di strutture di medici specializzati, di infermieri in grado di assistere la polizia giudiziaria e quindi di completare questo processo. Poi abbiamo anche previsto le analisi di secondo grado a garanzia del cittadino, e quindi questo sistema io mi auguro possa funzionare bene e dare un contributo importante alla sicurezza nelle strade. E poi c'è l'altro grande fronte, l'altro grande tema, che è quello della distrazione al volante dovuta soprattutto al cellulare. Voi state procedendo e procederete anche con il sequestro del cellulare? Tutte tutte le volte in cui vi è un incidente stradale con conseguenze serie, dovrà essere dalla polizia stradale, dai carabinieri, da chi interviene, posta particolare attenzione al fatto che vi sia un cellulare, in maniera che si possa sequestrare, dare atto già nel verbale se era collegato o meno ad un viva voce, se era in attivo o meno, e poi dopo si potranno fare le analisi su questo cellulare per verificare se aveva ricevuto o mandato messaggi o altro al momento dell'incidente. Questo è molto importante perché dalle statistiche relative al 2015, ma credo che siano confermate nel 2016, è risultato che una delle principali cause di incidenti mortali o con gravi lesioni è l'uso del cellulare al volante, ed è quindi una disposizione che viene data alla polizia giudiziaria dai procuratori della Repubblica perché vi sia una particolare attenzione a questo fatto tutte le volte che vi è un incidente grave. Questo serve a voi naturalmente ad accertare come sono andate le cose o come si può ipotizzare che siano andate le cose, da una parte, dall'altra parte ha una qualche forma di deterrenza, cioè ci può essere un aggravante per un comportamento di questo genere? Un'aggravante non è prevista dalla legge, come invece è prevista per specificamente per lo stato di intossicazione da alcol o da stupefacenti, però certamente è un aiuto importante per capire come sono andati i fatti, e naturalmente il giudice potrà valutare la particolare, come posso dire, negligenza, il fatto, l'imprudenza che si è tenuta nella condotta di guida, quando addirittura mentre si guida si digita la tastiera del telefonino, o si parla, o addirittura si chatta online, sono cose incredibili. D'altra parte è esperienza comune, chiunque va girando vede lo vediamo tutti, tutto tranne chi a guidare. Lo vediamo tutti in giro. Lei dice in sostanza, procuratore, che la possibilità alla fine è che nelle pieghe di quello che è il diritto italiano il giudice alla fine vada a valutare questo elemento come magari un elemento, non un aggravante vero e proprio, ma comunque un elemento di negligenza che faccia ricadere più pesantemente le colpe eventualmente sul guidatore che ha utilizzato. Anche in questo caso io spero che abbia una funzione deterrente, preventiva, perché già sono previste sanzioni, queste amministrative, per chi usa il cellulare o altri strumenti di questo genere al volante. In questa maniera vi è un'attenzione particolare, anche viene sollecitata alle forze dell'ordine un'attenzione particolare che può avere queste conseguenze. Grazie al procuratore Salvi per essere stato con noi. Adesso ci fermiamo, c'è il traffico. Mario Platero, ci risentiamo alla fine per i saluti.